say, well, why didn't you tell me in person? People said, he don't want to embarrass him, old boy, but if he does, it embarrass the shit out of him. Well, no, he didn't, brother. He didn't know that. He didn't know her, knock out murder. Only shoot a bunch of them loud. That's your like 404, I tell him that at night. Calvin would make your message, and then Don Diego make your message. Well, I'm in my ear, and I got a repeat date with you. TV, so I got a right talk. So there you go. mad or something? Sure. Oh, yeah, sure. Better sleep here, because I like how you say you're sleeping with nobody, because nobody's heads on, kids, and all this stupid shit. Yeah. Popo's learning about it. Popo's learning about it. All these damn lines. I'm right outstanding with my damn show. I think once you come out here and I'm pumping the right shit, but I ain't going to come right here. Yep. Find it all the petty guy. Well, he shouldn't have. Whose fault? Whose fault? He got that $100 fine. Yeah, man. We're going to talk about this later. We're going to talk about this later. Now, who's wrong with that? He got that fine. You don't even see me. No, he shouldn't have fine, so. I'm giving a man some buddies I got left. I don't agree what they're doing to my buddy over there. All these things can help. Yeah, I know it ain't right. What he's saying, I'm gonna burn on him. I'm gonna rub it. I'm gonna rub it. I really don't let anybody know him. You know that I'm gonna have, even though I'm not gonna say nothing. I'm not gonna say it. I'm gonna say radio. I'm not gonna say it on. I don't want nothing to know. That's right. Sure did. Could have been CB in here for a long time. One thing on the altar radio, but they won't say on the radio. Break a break. Well, they won't come out and tell lies. Try somebody in trouble. Try somebody in jail. Somebody hurt. Get somebody put in jail. Come out here, listen to that. Don't even lie. Don't come talk with your buddies or talk about it. Or, you know what? Huh? Come out here. Break your program. Find that for a guy. Tell that you can find out. I'm not sure who all else is built that way. Tell that you what's going on with you know, the claim to be your buddy. Something going on all these tapes, pointing this way. They're not telling who in the hell it is. They know who it is. They're hood, not telling their buddies. Letting that shit go on. That's why that's what their way out. That's why they get out. Soap opera. LAB Radio, LAB people, LAB Radio. Bye-bye. Bye-bye. Yeah, make a million of all these people do, tell all these lies, make up all these lies, convince them, then they won't run to the law. And the law will believe it for them lies. That's because other people sit back and let them do that to them. Yeah, they got a bunch of damn crybabies. You damn right, old son of a whore. Old 44. Yeah, they run into that. They run into the popo. That's a bunch of damn crybabies. You damn right about that. I got me a little bitch out here, 45. We'll beat on him a little bit. Yeah, I like beating on a little bitch. I like hearing them little bitches cry. Can you hear it no more? You're beating on 45. Can you hear it? I'll stand by the event. See if you hear it. What's that name call me? He tried to go with me, but I'll stand by to see if you can hear it. Make him out. You know, didn't you? because you can tell them there don't need no reason for them people to be jealous or hurt them. Here's somebody talking about you for 45. You better hurry up knowing. I'm gonna get in there, so I'm gonna find out why they and I tell them lies and try to beat up on my buddy 45. But he ain't no damn business coming down trying to beat up on you. You ain't done nothing to that old boy. You don't even know if you're talking to him or not. Attenzione, sul canale 10 c'è qualcuno. Ciao Mirko, buonasera a te. Eh sì, la temperatura si è abbassata adesso. Meno male che ti hai fatto la legna quest'estate. Sei già pronta. Vabbè. Interessante che tengano, che sia olivo. Ti dura tutta la sera, dai. Da quando accendi il fuoco, se da quando vai a letto ce l'hai. E anche qualcosa rosso c'è nel camino, no? Cappa. Ma è una sorta di stufa di quelle economiche come si usavano prima. Cappa, si è risolto così è meglio, dai. Se non consuma tanto e ti conviene quella lì, è fatto bene che ti ha preso quella. Anche perché se l'ambiente non è molto grande lo riscalda bene. Ma io ce l'ho la pompa di calore, ma non lo uso mai. Come pompa di calore non lo uso mai, la uso qualche volta per refrigerare, dai. e basta, tutto lì. Diciamo che come riscaldamento c'ho quello condominiale, quello gasolio, e va bene quello, dai, si scalda abbastanza bene l'appartamento, anche se la mattina c'è un bel freddo qua. Ui, se non ti copri bene c'è freddo, qua c'è molto freddo, c'è tutta la brina scende. Lo senti anche? Dai, diciamo che noi siamo fortunati qua. Ciao Emanuele, mi hai sentito? Avanti. Emanuele, ma farò così. Vabbè, non vuole entrare. Niente, sì, è vero, siamo abbastanza fortunati perché in continente c'è già la neve e anche, diciamo, nella zona del Nuorese anche lì sta nevicando. E in parte non dipende da noi, in parte, perché diciamo che l'inquinamento che noi abbiamo creato ha fatto ribellare la natura. Torino, tu sei? Cappa, che sì. Avanti, buonasera. Sono con Mirko di Alghero. Ecco perché lo ascolto bene bene, a Santiago 7, Radio 5. Mirko, mi copri? Torino Kawasaki. E Cappa, io non sono a Sassari comunque, sono in campagna e poi tra l'altro non ho l'antenna sul tetto, sono attentato in terra, tutto qua. Comunque, se mi ascolti con Santiago 4 mi va anche bene, perché per Alghero era zona negativa io, tutto qua. O Mirko, avanti Gianni. E vabbè, interessante che ti senta tu lì. Quindi Mirko, tu stavi dicendo che non dipende da noi il cambiamento climatico, io penso un po' di sì, perché noi abbiamo creato molto inquinamento usando automobili, riscaldamenti e via dicendo, inquinamento delle fabbriche, insomma ha cambiato un po' tutto. Un attimo già, Mirko, il cambiamento climatico c'è anche l'uomo, e ti spiego perché. Il buco d'ozono che l'ha fatto? Si è creato da solo? No, con tutta la porcheria che bruciano e mandano nell'aria. Non parliamo qui della terra, che cosa, a parte l'inquinamento, tutto quello che stanno togliendo, petrolio, gas, alla fine questa terra si sta svuotando. E come va a finire? Lasciamo perdere i terremoti, eccetera, ma poi la fine non so che fine facciamo. Quindi l'inquinamento, l'atmosfera, sì, al mille per mille. Quindi è tutto dovuto a sempre l'uomo a rovinare tutto. Avanti già. E infatti la natura si ribella. Hai capito Mirko? Sì, ma prima avevamo le quattro stagioni, non ne abbiamo più, allora perché abbiamo estate, inverno e basta. Poi non saprò se poi andare nel tempo, mi auguro di no, avremo solo estate o solo inverno, che se le fette piccio sarebbe, comunque, o anche estate, dai. Sì, purtroppo tutto quello che mutano nell'aria, esperimenti che fanno, eccetera, eccetera, purtroppo l'uomo la sta rovinando, tutto. Quella ragazzina aveva ragione, che andavo per scema, e invece non è vero, di fermare queste cose che stanno uccidendo tutto nell'atmosfera, quella inglesina che uccideva tutto il mondo. Ma comunque, ripeto, cosa vuoi dica, io non sono nessuno per poter fermare certe persone. Queste grandi fabbriche buttano veleni sul cielo, aiutate. Perché secondo te stanno mettendo le macchine elettriche? Proprio per diminuire, diciamo, questo danno che stanno facendo. Non so se ce la faranno. Poi questo gasolio, quanto dura? Dicono che forse nel 2030 non ci sarà più niente, 2035, quindi stanno sempre togliendo, alla fine questa terra non c'è più niente, non c'è più risorse, alla fine è zero, capito? E togli gas, e togli minerali, e togli quello, e togli quell'altro, alla fine stai svuotando l'interno della terra, e i terremoti, è ovvio, l'assestamento del terreno, è quello che succede, succede, avanti già. Vabbè. Tiriamo innanzi, Duni, chi vivrà vedrà di Zaghissu. Avanti, Mirko. Ma io dico solo questo, l'essere più cattivo del mondo è sempre l'uomo, ricordatelo, non l'animale, perché l'animale potrebbe ammazzare per la fame e mangiare, mentre l'uomo uccide invece per denaro, per arricchirsi, capito? Quindi lo sappiamo sempre saputo. Trova sempre queste diavolerie per avere sempre più soldi, sempre più soldi. Vabbè. Vabbè, cosa vuol dire Mirko? Purtroppo, è così la vita. Avanti già. Sì, sì, sì. Ma Mirko, stasera tu hai chiamato a casa? No, negativo già, perché mi sono addormentato, mi sono svegliato poco fa. E allora era qualche spam, perché più che tu e gli spam non chiamate al telefono di casa. Infatti ho detto non rispondo perché ero in bagno e non ho risposto. Tu già mi chiamerà il cellulare, c'avevo il cellulare in mano. Comunque io ho chiamato anche la Vodafone perché ho avuto 4-5 chiamate al giorno di questo della SIM che mi stanno rompendo i pallucci. Mi sa che farò una bella denuncia, faccio prima, dai. Non so mai cosa devo fare per chiamare il suo numero verde, il numero verde VCS, perché non è abilitato, è un casino. Per bloccare queste chiamate l'entrata della SIM, glielo ho spiegato e niente da fare. Io mi sono rotto perché non si può, uno riposa e le chiamo questo della fibra, della team, eccetera, eccetera. A me mi hanno rotto, io link, diciamo internet, ce l'ho già, non mi interessa niente. È l'ultimo che mi chiamo 2, 3, 4 volte, mi chiudo il telefono e me le chiamo lo stesso numero, ma stiamo scherzando. Allora quando mi richiamo io schiaccio 1, poi mi richiamo loro e le mandino a fanculo, scusate la frase, e mi viene, dico basta, dice ma io ho schiacciato 1, sì, almeno posso parlare con voi, mandate la registrazione, la chiamata e mi loro, mi avete rotto le scatole, sempre a chiamarmi, basta, mi avete rotto, a meno che adesso mi devo cambiare il numero, ma mi dispiace perché ce l'hanno tutti, ce l'ha l'Ips, ce l'ha l'INA, ce l'ha la Fera, ce l'ha tutti quanti, e mi rotto, hai capito? Tanto te lo trovano lo stesso anche se lo cambio. No Gianni, allora, dunque, il numero nostro purtroppo, dico purtroppo perché scimmia anche noi, non sapendolo, ci facciamo la carta della Corte, che ci facciamo la tessera dei Carrefour, cioè, tutti che compiliamo quel foglio mettiamo il nostro numero di telefono, questi imbecilli lo danno, questi qua e questi ti chiamano, ti rompono le scatole. Ma non lo so se possono farlo a darlo così ai cani porci dove lo compili il foglio. Ma non lo so, avanti Mirko, e a te ti chiamano a romperti le scatole, a me mi chiamano all'ora di pranzo perché sanno che ci sei, oppure dopo pranzo quando stai facendo il riposino ti chiamo. Ma Mirko sei pulito. Mirko ci sei, stai cucinando. Sì, in effetti io invece ce l'ho molte chiamate quando faccio il pisolino, e di mattina e di sera mi hanno rotto le scatole, sì, è uscita una valigia che se questi ti continuano a assinarti le puoi denunciare. Allora io denuncio, ho anche i numeri, me ne sono scritti, quelli che mi chiamano spesso e volentieri, basta, perché ne ho le scatole piene. Qualche volta poi farli ho bloccati, le chiamate e cambiano il numero loro. E vabbè. Comunque, buona amministrazione, se lo fai sulle le verdure, guarda Mirko, è una cosa buonissima, che io da poco l'ho fatto. Avanti già. Io ieri avevo messo le lenticchie. Che porta soldini. E mi sa che ce n'è ancora, mi sa che me la mangio oggi, quella che è avanzata. Tanto mi piace di più riposare. Guarda, io stamattina ho fatto un bel sugo ragù, che ci ho messo anche i pisilli in mezzo. E dirò che è buonissimo, tant'è vero che poco fa, nel tegamino è arrivato un po' di sugo, l'ho scaldato e mi sono messo le fette biscottate con un cucchiaio di legno, un pochettino dentro e mangiavo, mi sono fatto due pacchi di fette biscottate, non c'ho più fame, sono sazio. No, oggi io ho mangiato, sì, con ragù, i tortellini con ragù, tortellini. Vabbè, già sono buone che i tortellini. E vabbè, purtroppo ho avuto questo appetito e ho mangiucchiato un pochettino. Più tardi vuol dire che mi posso permettere di stragredire e prendermi e mangiamo un cornetto, eh? Oh yeah, misurati la glicemia sempre, eh? Avanti Mirko, questo qui è un mangione, mi. Andatelo a guardare così, ma pappa molto. Che sta parlando? E quando hai mangiato tu ieri sera? Sì, vabbè, 4 più 7 è come una pizza grande. Ma metti ne apri tutti e due, metti vicino all'altro, altro che pizza grande. Quella diventa gonfia, diventa il triplo nello stomaco. Ma io, guarda, le pizzette mi piacciono più delle pizze grandi, ci credi? Sì, sono più buone, quello lo metto in dubbio, è vero. Avanti Mirko, a te ti piacciono le pizzette? Ma di dov'è sto qua? Estero. Ah, ho capito. Tedesche. Fratello. Va bene, sì, anch'io è così. Anche 3 volte alla settimana, magari. No, 3 volte no, ma almeno 2. Quasi sempre le prendiamo le pizze, o le pizze grandi o le pizze piccoline, le prendiamo. Ma io ho la pizzeria sotto il mio portone, quindi tu ti puoi immaginare come fa le pizze, ce le sale su e sono bollenti. Mirko, sai cosa fa Gianni? Butta giù il cerchiello con la corda e mette il pizzetto e se le tira su. E dove hai imparato, Mirko, a fare le pizze? Ah, allora basta, dai. C'avevi una pizzeria? Qua in Sardegna oppure fuori? Ah, ecco. Ho capito. E magari conosco anche il locale, non lo so. Perché Alghero la ci frequentavo, specialmente da giovane ci ho frequentato tanto. E io, guarda, quando andavo a Alghero andavo nel ristorante La Posada del Mar, lì mi trovavo molto bene, facevano dei piatti veramente buoni. Mentre invece per la pizza non mi sono trovato bene, ho preso la pizza e non mi è piaciuta. Ho aspettato tanto quest'estate per servirmi la fuga, non me l'ho servita e non mi è piaciuta. E vabbè, magari abbiamo sbagliato pizzeria. Io lo so, siamo andati in quella pizzeria che c'è quello spiasso, non so che via sia, quello spiasso che c'è dopo quella galleria che sale dal porto, no? C'è quello spiasso sulla sinistra. Mirko. Ciao Carlo. Buonasera Carlo. Buonasera a tutti. Com'è, non è troppo tagliato? Siamo in compagnia di Mirko, avanti Carlo. Ciao Mirko, buonasera. Benvento ne avete ad Alghero. Sono rientrati con lui. Ho capito, sì sì, ci siamo sentiti qualche giorno fa che io stavo andando a lavorare, ti ricordi Mirko? E quella notte c'era un bel po' di vento e ha fatto un sacco di danni. Esatto, adesso sono a casa, comunque già ti sento bene anche qua a casa Mirko. Carlo, ti rilancio gli altri, ciao Tonino, Natalino, non so chi ci sia, ciao Gianni. No, Natalino l'abbiamo sentito, negativo. Allora, tra un po' ti chiamo Carlo, ti devo dire una cosa, però ti chiamo al telefono perché qua ci sono troppe orecchie di porco e a me ascoltare ciò che voglio dire a te non voglio che lo ascoltano gli altri. Con Gianni poi lo chiamo e glielo faccio sapere anche a lui, però con Gianni ne abbiamo già parlato, se lo parlerà tutta mattina. Ok, tutto qua. Io va bene, già sono qua a casa tanto. Carlo, devi sapere che a Valleluia mi ha chiamato un amico, ha piegato i pali della signoretica stradale quel vento, immaginati. Ci ha troncato l'antenna, un casino. Lo so, ha fatto un bel po' di danni. E domani dovrebbe di nuovo rinforzare il vento, così ho sentito. Incrociamo le dita. Ho visto la tua antenna il giorno che ha fatto quel vento, si piegava abbastanza. Diciamo che flette, ma già non molla. L'interessante è quello, infatti è toccata, ha voglia che si muove. E la mia invece era più, invece toccava di più a casa, dalla parte di casa tua, il vento, perché ho guardato quella mia e fletteva meno. Sì, ma dove sono io è molto molto in alto, capito? Se tira maestrale qualsiasi vento e te la piega. Sì, ma io sono proprio di fronte al mare, Carlo. Cioè io vedo il mare da casa. Che io lo vedo da qua, se salgo sopra il tetto vedo tutto, capito? Non ci sono problemi. E lo so, però adesso proprio come si dice a oggi a mari. Datemi un attimo che rispondo al telefono. Ehi, avanti Mirko! E tu, passione di pesca, ne hai? Ti devo mettere un carrello nella macchina, te la portavi in campagna e via. Ho capito. E vabbè, prendi un gommoncino, tanto per andare a pescare. E gioca da bagno. Vabbè, tante cose si rinuncia più quando si invecchia. Tante cose si rinuncia. Avanti Cali, buonasera. Buonasera, buonasera, sono salutato. Ho detto, prenditi un gommoncino e io ti ho detto, getta da bagno in Argolese. Prima che il vento, Carlo, ti spizzi con l'antenna, ne scende il palazzo, hai capito? Non c'è Carlo, è al telefono. Va bene, le gente che caratteristiche con l'antenna è spettacolare. Ce n'è per nessuno. Piega, per forza piega. È fatta forza, due elementi. Ma è molto robusta. Salutatemi, salutato, ciao. Ciao Mirko, voglio vedere quando è che ti sento in banda amatoriale. Ho sempre preso la patente per tenerla dentro il fustino del dash. Gianni. Oh. Vabbè, comunque quando vuoi, lo sai. Ciao, un abbraccio. Rispondete così, ciao a tutti. Claudio. Ciao Nico, ciao. Claudio, una domanda te la posso fare. Dimmi. Dopo i 7100, 7175 coso, sempre 40 metri solo o no? O arriva fino a 7100? Da 7000 a 7200. Ah, ecco. con l'uomo 7100, no? Infatti stasera ho sentito dopo i 7100. Comunque va bene, amico, il ricevitorino è una bomba. Tutti i ricevitorini già sono buoni. Quello portato che io ho avuto anche tu, il GPT era fenomenale. Ok, dai ragazzi, vi saluto, ciao Carlo, mi sono accetto anche Tonino, ciao Niccolo, lo chiamate Mirko, ma noi nello statuto dell'allevatore ci chiama Niccolo, va bene, ciao Gianni, ciao a tutti. Hai capito Carlo, prima che ti spezzi con l'antenna, è meccano il palazzo, tranquillo che è meccano il palazzo. A me ha preso a raffiche di maestrale l'ultima volta che mi ha buttato giù le barattuglie in legno, la recinzione del giardino minimo saltata 90-100 km/h. Piegava più della 510 che il fibro di vetro, ma manco balle balle. Va bene, dai, ciao a tutti, divertitevela, vai Carlo che prendi tu e fai girare la ruota, ciao ciao. Ciao Claudio, ci sentiamo, sì, no, già sono tranquillo che ben salda l'antenna. Riprendi, Tonino, si è rientrato. Ciao Claudio, buon Rix, allora, avanti Gianni. Ciao ciao Claudio. Ma nessuno ha detto che le cade, io ho detto sono fuori da piegato, assolutamente non ci ho pensato la mano che cadesse, ho detto che era molto piegata, che fretta molto. Fretta, fatta apposta Gianni, fretta perché c'è il tubo di sostegno che c'ha 2-3 diametri, capito? Il diametro che fretta praticamente sono gli ultimi 3 metri, gli ultimi allagati sono ben solidi perché sono affiancati da un altro tubo in alluminio che fa da radiatore dell'antenna che è da un pollice, quindi è una buona antenna, tranquillo, è tutto l'antenna che devono frettere, se non frettano spezzano, è inutile che andiamo a girare. Ma vabbè, avanti con il riprendi. Vabbè, la Jägermeister fretteva molto, si è truccata. Perché la Jägermeister l'ha progettato un ingegnere che forse ha studiato nei piani bassi, capito? È una truffa e antenna, quando me l'ho detto non mi avete creduto, con l'antenna è una truffa, con l'antenna va bene, mica come ce l'ha montata Natalino, così, capito? È a 2 metri di altezza come ce l'ha montata lì ai punti, capito? Ma se tu la metti come la metti tu, che c'è una zona molto molto ventilata, o come l'ha messa Sandro Tigre, che è uno dei primi, si è spostato anche a Salvatore, quindi lasciate proprio, antenna in alluminio, alluminio non vendo dalla là, è stato progettato per resistere il vento a oltre 130 km/h, quindi va bene, dai, non vi disturbo, continuate il corso, anche chi tocca. Scappa, c'è l'amico di Alghero che vuole salutarti, dai, avanti, Mirko. Non lo prende il tuo, Gianni, non lo fa le VLU. No, fa solo le VHF e basta. Le ultime. Io già lo so, però io ho visto la tua su cuore Z, praticamente sei Niccolo, non Mirko. Va bene, dai. Ci sentiamo, un abbraccio, fatti sentire quando puoi. Avanti Carlo, riprende a girare con i chiesi per me. Quindi si chiama Nicco. Niccolo. Lo chiamiamo con nome suo, io capivo Mirko, la verità. E Mirko ci ha messo al baracchino, ma il suo nome è Niccolo. Ho capito. Calma. Torino, avanti. Quello che ho io fa VEU. Faccio VU ed è 2657995, poi VU invece 380514 e c'è il MHz. Parliamo. Qua c'ha gli scatti, c'è gli scatti amatoriali. Mentre quelli, vabbè, gli altri fanno da 140, da 130, 170 e da 430, 470. E io c'ho quello che avevo preso da un operatore, e ha un sacco di tastini, poi c'è il numero, sembra un coso, un telefono, bellino, carino, frequenzimetro, ma ancora non ci capisco nulla, c'ho il libricino in mano, è un casino, no, una giugana di leggere. Sì, vabbè, quando giri, parla per questo, dove senti gente ti fermi, lasci di qui, che problema c'è, vabbè, vai. Divertito da ragazzi, rimango il Corix che risponde a Roberto che mezz'ora ti chiama il VHF. Vai Carlo. Avanti. Ciao, sono Ruggito, finalmente preoccupante. Buonasera, sono in compagnia di Torino, di Carlo e sono l'amico Mirko di Alghero, avanti. Ciao, chiodo nuovo, mata rosito. Mi ha messo un po' di Coca-Cola, si fa male il chiodo, è diventato lucido nuovo nuovo. Okay. Salutami a Capri2 comunque, la tua grichellona, ben entrato. Avanti Carlo. Buonasera Claudio. In quel di Muros ero da un po' che non ti sentivo. Ti rilancio l'amico Mirko da Alghero, vediamo se lo senti. Mi hai detto della... Sì, in città adesso sta andando male. Sta bombando. Esatto. Adesso mi dici che cosa è combinato, perché stai uscendo male, stai uscendo tutto saturo, ti avevo detto che stai uscendo bene e ne hai fatto qualche cosa, cosa è combinato? No, no, ancora no, prova a centrarti in mezzo. Ottimo adesso, no, pensavo avessi attaccato qualcosa, perché ha detto, mi adesso si è eccitato e ha fatto qualche cosa, ho combinato la radio. Sì Claudio, io sono rientrato da poco che ero in giro a far spese con mia moglie in quel di Ocean, Città Mercato. Ocean non c'è più adesso, lo chiamiamo Città Mercato e buonanotte. Ventino, un po' di freddo, 4 gradi ci sono fuori, adesso sono rientrato a casa e sono in maglietta bevendomi una birra fresca. A meno che tuo padre non sta più entrando, ok, come mai? Marco mio figlio. Hai capito Carlo? Anni, a quanto ci c'era la preamplificazione del microfono, qua me ne stai buttando giù tutto. E come forte? Abbasso, così va bene. Sì, così va molto molto meglio, perché cioè ti capisco, si sente bene, ma è troppo potente. Beh, io gioco una potenza. E tu c'è la potenza come il cannolo con l'ambe di crema, sempre tutto al massimo vuoi tu. Ah, che non me ne sono accorto, sicuramente ho toccato col dito. K, chiola arrugginito, facci sognare, torna fuori. Adesso me lo dai un riscontro di quanto ti sto arrivando, non di radio ma di segnale. E adesso sto uscendo con 30, con 30. Mirko, ci sei ancora in ascolto, per cortesia mi dai un riscontro anche tu adesso del segnale, se ti arrivo ancora a 8 oppure se sono andato un pochettino su. Ok, sì, ho capito, grazie comunque del controllo, scusate, ma è che stavo provando se funzionava il tutto. Benissimo, me ne ritorno ai canonici 4 watt. Insomma, più piccolo sono io qua, piccolo e nero, porca vita. Ho capito, dai, aspetta un po' più là quando mi arriva con la pressione e poi vediamo un po', anche io mi metterò più o meno a parità vostra. Andrà bene, e vabbè, pazienza, io come ti arrivo, sono liscio, non ho niente, purtroppo ho un microfono normale, quello posto che ti ho mandato, il baracchino è quello. Va benissimo, Tony, qua mi arrivi fondo scala, radio 5, io ti sento molto bene. E come volevo sì dimostrare, se esco con 4 o con 30 a Claudio, sempre 9.30 gli arrivo a Muros. E tu a me che 9.30 sei, e quando è poco fa sono zero, invece Gianni arriva proprio su lì, oltre il fotoscala proprio. Gianni esce forte, io Gianni lo sento, appena esco dall'aeroporto sento solo lui. E c'è una bella zona pure, dai. L'avrei avuto lì io, la zona, guai, avrei dominato. Non avrei lasciato questo prato che ho, molto molto più superiore l'avrei messo, e vabbè, pazienza. Comunque, e io sto cercando, mi sa che me ne vado a abitare al suo, la faccio prima, dai. Vai bene lì, Tonino, che già esci bene, arrivi ad Alghero, a Porto Torres, e dove vuoi arrivare? Voglio arrivare anche su Uranio.